Capitolo 13. In quella primavera la brughiera fu una grande risorsa. Emily e Charlotte vi fecero frequenti passeggiate con grande danno per le nostre scarpe, dissero, ma a quanto spero a vantaggio della nostra salute. Il progetto di aprire una scuola fu spesso discusso durante quel vagabondare. In casa cucivano assiduamente, per lo più in silenzio, un corredo di camicie per l'assente Bronwell, meditando sulla loro vita presente e passata. E finalmente giunsero a una decisione. Ho seriamente mosso i primi passi sulla via che deve condurmi ad aprire una scuola, cioè ricevere in casa un esiguo gruppo di alunne. Ho incominciato a cercare con zelo, ho scritto a Mrs., la signora presso la quale aveva vissuto come governante immediatamente prima di recarsi a Bruxelles. Non per chiedere sua figlia, non posso essere così esplicita, ma semplicemente informandola della mia intenzione. Ho ricevuto risposta da Mrs. che si rammarica, credo sinceramente, di non essere stata informata in proposito un mese prima, nel qual caso mi avrebbe affidata la ragazza e insieme con lei sarebbe venuta la figlia del colonnello S. Ma ormai si erano impegnate con Miss. Sì. Questa risposta naturalmente mi deluse, ma d'altra parte ne fui veramente soddisfatta perché sono stata veramente incoraggiata dalla calda assicurazione che, se mi fossi rivolta a loro più sollecitamente, mi avrebbero certamente affidato la loro figliola. Ti confesso che temevo di non trovare nessuno disposto a mandare una ragazza a Haworth per esservi educata. Questo timore è ora in parte passato. Ho scritto anche a Mrs. B. Occludendo il diploma rilasciatomi da Monsieur Heger al momento della mia partenza da Bruxelles. Non ne ho ancora ricevuto la risposta che aspetto con una certa ansietà. Non mi aspetto di vedermi affidare qualcuna delle sue bambine, ma so che, se lo vuole, può procurarmi delle alunne. Sfortunatamente ci conosce solo superficialmente. Appena mi sarò garantita anche una sola alunna, farò stampare dei biglietti col programma e le condizioni e darò inizio alle necessarie modifiche all'ambiente qui in casa. Desidero che ogni cosa sia fatta prima dell'inverno. Penso di chiedere come retta, includendo vitto, alloggio e insegnamento in inglese, 25 sterline all'anno. Ad anno più inoltrato, scrive, in data 24 luglio, sto portando avanti del mio meglio il modesto progetto che sai. Ho scritto a tutti gli amici all'interesse dei quali vanto un pur minimo diritto e anche a persone che non mi devono nulla, Mrs. B, per esempio. Mi sono presa la libertà di farle visita. È stata estremamente cortese e mi ha detto quanto le dispiaceva che le sue figliole fossero in collegio a Liverpool. Ha aggiunto che l'impresa alla quale mi accingevo meritava ogni lode, ma che temeva che la posizione dell'edificio costituisse una seria difficoltà alla riuscita. È la risposta che ricevo da quasi tutte. Rispondo che il luogo ritirato costituisce un vantaggio da un certo punto di vista, che in un grande centro non potrei accontentarmi di una retta modesta come quella che chiedo. Mrs. B mi aveva subito detto che la considerava molto moderata. Non dovendo pagare un affitto, potevo garantire un insegnamento a livello di quello impartito in istituti assai più cari, con una retta di poco superiore alla metà. E siccome il numero delle alunne doveva essere assai limitato, molto tempo sarebbe loro dedicato individualmente. Grazie per la graziosa borsetta che mi hai mandata. Io ti contraccambio con lo strano invio di una mezza dozzina di programmi stampati. Fanne l'uso che il buon senso ti suggerirà. Vedrai che ho fissata la retta in 35 sterline, che penso siano una giusta media, presi in considerazione i vantaggi e gli svantaggi. Quanto sopra era stato scritto in luglio. Agosto, settembre, ottobre passarono senza che si udisse parlare di una qualsiasi alunna. Giorno dopo giorno le sorelle speravano sempre più debolmente nell'arrivo della posta, ma il villaggio di Haworth era selvaggio e solitario. Le Bronte poco conosciute, nessuna delle loro relazioni sociali aveva una benché minima importanza. Charlotte commentò come segue il fatto all'inizio dell'inverno. Io, Emily Ann, ti siamo veramente obbligate per come ti sei data d'attorno in nostro favore. Se non hai avuto successo, ti è capitato semplicemente quello che è accaduto a noi. Tutti ci hanno augurato buona fortuna, ma nessuno riesce a snidare le alunne. Tuttavia, per il momento non abbiamo alcuna intenzione di lasciarci spezzare il cuore dalla situazione e ancora meno di sentirci mortificate o sconfitte. L'impegno non può essere che benefico, qualsiasi debba esserne il risultato, visto che ci procura esperienza e una migliore conoscenza di questo nostro mondo. ti mando altre due circolari. Non abbiamo ancora fatto alcun cambiamento in casa. Sarebbe una pazzia affrontare le spese mentre è così scarsa la probabilità che vi vengano delle alunne. Temo che ti prenda troppo disturbo per noi. Puoi star certa che anche se riuscirai ad indurre una madre ad accompagnare la sua figliola a Haworth, l'aspetto del luogo la spaventerà e si porterà subito via la ragazza. Sono lieta però di aver fatto il tentativo e non ci lasceremo deprimere perché non avrà avuto successo. Probabilmente nel cuore delle sorelle andava nascendo, anche se non lo ammettevano, un vero e proprio sollievo per l'insuccesso del loro piano. Quella casa che, quale focolare domestico, era sempre pronta ad accogliere il loro fratello, non poteva essere una dimora opportuna per ragazze strane. Con ogni probabilità si erano silenziosamente rese conto che il suo comportamento era tale da rendere la sua compagnia più che indesiderabile in certi momenti. Forse erano già giunte fino a loro voci che spiegavano le cause di quel rimorso, di quell'angoscia, che lo facevano preda a volte di un'ingiustificata allegria e a volte di una irritabile depressione. Nel gennaio del 1845 Charlotte scrive: «Questa volta Bronwell è stato più quieto, meno irritabile che nell'estate scorsa. Anna, come al solito, è invariabilmente buona, mite e paziente. La tormentosa preoccupazione che aveva messo profonde radici in famiglia ormai aveva preso una forma precisa e pesava come piombo sulla mente di Charlotte e sulla sua salute». Nelle prime settimane di quello stesso anno si recò a H per dire addio alla cara amica Mary, che si preparava a lasciare l'Inghilterra per recarsi in Australia. Oltre alla pena per la separazione, incombeva su di lei una profonda tristezza cagionata dalla consapevolezza, che non era ancora certezza, della colpa di cui suo fratello si macchiava. Una colpa che già lo dominava tanto da rendere inutile ogni rimostranza, per quanto severa, ogni occasionale rimorso, anche se acuto, a tal punto ne era prigioniero. Questa storia deve essere raccontata. Se mi fosse possibile evitarlo, lo farei, anche se è così conosciuta da essere, per così dire, di dominio pubblico. Inoltre, è forse possibile che rivelare l'agonia cagionata a una famiglia, la miseria, le abitudini disordinate e la morte precoce di chi le fu compagno nel peccato faccia nascere un barlume di pentimento nella sciagurata donna che non solo gli sopravvive, ma trascorre il tempo negli allegri ritrovi della società londinese, pronta ad accogliere amichevolmente quella briosa, elegante, ricca e florida vedova. Bronwell aveva ottenuto un posto di precettore, pieno di talento, brillante conversatore, valido scrittore, buon disegnatore, pronto alla lode, con un fisico lungi dall'essere brutto, attirò il capriccio di una donna sposata, che aveva quasi 20 anni più di lui. Non gli valga di scusa di dire che fu lei a fare le prime mosse e ad agire da innamorata. Era così ardita e spregiudicata che non si nascose dai figli più grandi. E quelli presero a minacciarla che, se non li avesse accontentati in questo o quest'altro capriccio, avrebbero detto al padre, costretto a letto, come se la intendeva con Mr. Bronte. Figlio. Questo era talmente stregato da quella donna depravata che se ne allontanò malvolentieri per recarsi a casa durante le vacanze di Natale. Vi si trattenne per un brevissimo tempo, lasciando i familiari perplessi e sgomenti dal suo modo di fare incongruo, ora esaltato, ora depresso. Si accusava di colpi orribili, di tradimenti, senza specificarne la natura, nell'insieme dando prova di una irritabilità da sconfinare con la pazzia. Charlotte e le sorelle soffrivano per questo suo anomalo comportamento, poiché si dichiarava soddisfatissimo dell'impiego ottenuto, vi restava più di quanto fosse mai accaduto nei precedenti posti di lavoro. Come immaginare che proprio in quello vi fosse una situazione tale da sconvolgerlo al punto di farlo continuamente passare da una esagerata euforia a una cupa disperazione? Il sospetto che la vera causa si annidasse in lui le deprimeva. Non era più l'orgoglio della famiglia, anzi, si insinuava in loro l'inconfessato timore che egli potesse diventarne il disonore. Ho l'impressione che si trattenessero dal mettere in parole la loro preoccupazione, parlavano di lui il meno possibile, ma non potevano impedirsi di immaginare, di pensare, di soffrire. 20 febbraio 1845. Ho trascorso a H una settimana non molto piacevole. Un continuo mal di testa unito a una leggera nausea e a uno spirito abbattuto hanno fatto di me una povera compagnia. una triste remora alla vivace gaiezza degli altri ospiti della casa. Non ho avuto la fortuna di riprendermi nemmeno per un'ora finché mi sono trattenuta là. Sono certa che tutti, forse eccettuata Mary, sono stati contentissimi quando ho preso congedo. Incomincio a rendermi conto che ormai la scarsa vivacità che mi resta mi permette di essere una compagna adatta solamente a gente molto tranquilla. È l'età o cos'altro che mi cambia così? Beh, non c'era bisogno di porsi una simile domanda. Come poteva non essere di spirito abbattuto e perciò una povera compagnia e una triste remora per chi vive felice a cuor leggero? Il suo onesto progetto di guadagnarsi la vita era ridotto in cenere. Dopo tante iniziative non si era presentata una sola alunna e ora, nel constatare l'impossibilità di realizzare quel sogno, invece di rammaricarsi aveva un triste motivo per rallegrarsene. Il suo povero padre, semicieco, dipendeva in gran parte da lei, ma questa era un'incombenza sacra e pia e facendosene carico si sentiva benedetta. La cupa ansia era cagionata da colui che ancora poco tempo prima era stato fonte di vivida speranza per la famiglia, da Bronwell, dagli inspiegabili, disordinati sbalzi di umore che segnavano la sua giornata. Prima o poi sarebbe pur dovuto tornare a casa per nascondervi come in un rifugio la sua vergogna. Questa era la triste previsione delle sorelle. Lei, inoltre, era sul punto di perdere per lungo tempo la sua cara Mary, che se ne andava a una così grande distanza da far temere che il loro fosse un addio per sempre. Molto tempo prima aveva scritto a proposito di Mary T. È colma di sentimenti nobili, caldi, generosi, profondi, devoti. Dio la benedica. Non potevo sperare di incontrare in questo mondo una creatura più nobile. Sarebbe pronta a morire volentieri per una persona amata. Il suo talento e i suoi pregi sono del più alto livello. E questa era l'amica da cui si doveva separare. Ecco il resoconto del loro ultimo incontro, fatto dall'amica stessa, quando vidi Charlotte per l'ultima volta, nel gennaio del 1845, mi disse che ormai aveva deciso di restare a casa. Ammise che la cosa non le piaceva, ma la sua salute era debole. Disse che a tutta prima le sarebbe piaciuto un qualsiasi cambiamento, come in un primo tempo le era piaciuto Bruxelles. Era certa che per alcuni vi fosse la possibilità di godere una vita varia, in piena comunicazione con gli altri, ma che non vedeva come ciò potesse essere possibile per lei. Io le dissi con calore che non doveva rimanere a casa, che trascorrere i prossimi 5 anni a Haworth in solitudine, con la sua salute malandata, equivaleva a rovinarsi definitivamente, non se ne sarebbe mai riavuta. Una così cupa nube le scese sul viso quando aggiunsi: «Pensa come ti sarà ridotta da qui a 5 anni». Non pianse, ma continuò a passeggiare avanti e indietro per la stanza e dopo un po' mi disse: «Ma io ho l'intenzione di rimanere, Polly». Alcune settimane dopo la definitiva separazione da Mary, ella diede il seguente resoconto delle sue giornate a Haworth. «Provo difficoltà a dirti come il tempo trascorre qua. Nessun avvenimento ne segna il passaggio. Ogni giorno è simile a quello precedente e tutti hanno un'impronta pesante, inerte. La domenica, giorno in cui inforniamo il pane, e il sabato sono gli unici giorni contrassegnati da qualcosa che li distingue dagli altri. Nel frattempo la vita procede. Presto compirò 30 anni e non ho ancora concluso nulla. A volte mi immalinconisco gettando lo sguardo sulla prospettiva che si apre dinanzi a me oppure sul panorama che mi sta alle spalle. Riconosco che è inutile e sciocco meditarci su. Senza possibile dubbio la voce del dovere mi impone di rimanere a casa per il momento. Vi fu un tempo in cui Haworth era un luogo piacevolissimo per me. Ora non lo è più. Ho la sensazione che noi tutti vi siamo sepolti. Desidero ardentemente viaggiare, lavorare, condurre una vita d'azione. Oh, scusami, cara, se ti infastidisco comunicandoti i miei inutili desideri, metterò da parte le altre spiacevoli considerazioni. Non ti importunerò con esse. Devi scrivermi. Se tu sapessi quanto le tue lettere sono le benvenute, scriveresti spessissimo. Insieme con i giornali francesi, esse contengono gli unici messaggi che mi giungono dal mondo esterno, al di là della nostra landa. E quanto mi sono benvenuti! Una delle sue incombenze quotidiane consisteva nella lettura ad alta voce, fatta al padre, e il compimento di questo dovere richiedeva da parte sua l'esercizio di una gentile diplomazia, poiché spesso sentire altri fare per lui Ciò che egli era stato solito fare da solo gli rammentava penosamente la menomazione di cui soffriva. Inoltre, senza farne parola con i suoi, anche Charlotte temeva di essere destinata a perdere la vista. Una salute cagionevole a lungo trascurata, il fegato in disordine, la continua applicazione a disegnare e a scrivere con un tracciato minutissimo nei giorni dell'adolescenza, le lunghe notti tormentate dall'insonnia, le molte lacrime sparse in silenzio per la condotta disordinata e misteriosa di Bronwell, tutto ciò contribuiva a indebolire i suoi poveri occhi. In quei giorni scrisse a Monsieur Heger quanto segue: «Non vi è nulla che io tema tanto quanto l'ozio, l'inerzia, la letargia delle facoltà mentali e quando il corpo è pigro, lo spirito soffre crudelmente. Non conoscerei questa letargia se potessi scrivere. In passato trascorrevo giorni, settimane, mesi interi scrivendo e non del tutto senza frutto, poiché Coleridge e Southey, due dei migliori nostri scrittori ai quali ho inviato alcuni manoscritti, si sono degnati di approvarli, ma ormai ho la vista troppo debole. Se scrivessi molto diventerei cieca. Questa debolezza agli occhi è causa per me di molte privazioni. Se la situazione non fosse tale, sapete cosa farei, signore? Scriverei un libro e lo dedicherei a voi. Vi ho detto spesso in francese quanto vi rispetto, quanto devo alla vostra bontà, quanto devo a voi che siete stato il mio maestro nello studio della letteratura, l'unico maestro che io abbia mai avuto. Devo tanto ai vostri consigli. Vorrei dirlo una volta in inglese. Ciò non è possibile. Non ci devo pensare. La carriera delle lettere mi è chiusa. Non dimenticate di dirmi come sta la signora, come stanno i bambini. Faccio conto di ricevere vostre notizie quanto prima. Questo pensiero mi sorride, poiché il ricordo della vostra bontà non si cancellerà mai dalla mia memoria. Finché questo ricordo durerà, durerà anche il rispetto che mi avete ispirato. Gradite, signore, eccetera, eccetera, Charlotte Bronte. È probabile che né le sue sorelle né le più intime amiche siano state al corrente di questo suo timore della cecità in agguato. Quel tanto di vista che le restava lo dedicava al servizio del padre. Cuciva poco, scriveva solamente lo stretto necessario, il lavoro a maglia era la sua principale occupazione. 2 aprile 1845. Vedo con assoluta evidenza che in questo mondo non vi è un solo sorso di felicità totale da assaporare. La malattia di X giunge di pari passo col matrimonio di Y e Mary T si trova libera su quella via di avventura e di impegno sulla quale ha così lungamente desiderato di incamminarsi. La malattia, il pericolo, le privazioni come compagni di viaggio, come inseparabili compagne. Avrebbe potuto trovarsi fuori portata dalle burrasche di sud-ovest e di nord-ovest prima che incominciassero a imperversare, oppure si avrebbero potuto logorare la loro furia a terra senza sconvolgere granché il mare. Ma le cose sono andate diversamente e lei è stata violentemente colpita mentre noi riposavamo tranquillamente nei nostri letti o vi giacevamo sveglie pensando a lei. Tuttavia, questi pericoli reali, palpabili, una volta passati, lasciano nella mente il ricordo di aver lottato con le difficoltà, di averle vinte. Ne risultano invariabilmente forza, coraggio ed esperienza, mentre ho i miei dubbi che la sofferenza, puramente mentale, abbia un qualsiasi risultato se si esclude quello di renderci, per confronto, meno sensibili al male fisico. 10 anni fa, avrei riso dello sbaglio che hai fatto scambiando il dottore Scapolo per un uomo sposato. Ti avrei certamente trovata esageratamente scrupolosa e mi sarei chiesta com'era possibile che tu potessi rammaricarti di esserti mostrata cortese verso un uomo corretto semplicemente perché si dava il caso che fosse libero. Ora, invece, posso rendermi conto che i tuoi scrupoli si fondano sul senso comune. So che se vogliono evitare lo stigma di essere a caccia di marito, le donne debbono sembrare di marmo, di creta, fredde, prive di espressione, di sangue, poiché ogni manifestazione di sentimento, di gioia, di dolore, di amicizia, di antipatia, di ammirazione, di disgusto sono indiscriminatamente interpretate dalla gente come tentativi di agganciare un marito. Non ci badare. Dopotutto le donne di retta intenzione hanno la propria coscienza per conforto. Non avere dunque un'eccessiva paura di mostrarti quale sei, affettuosa e di buon cuore, non reprimere troppo drasticamente sentimenti eccellenti in sé, per tema che un ragazzetto qualsiasi si ficchi in testa che tu Li lasci scorgere per affascinarlo. Non ti condannare a vivere solamente a metà perché un qualche tizio presuntuoso che veste calzoni potrebbe ficcarsi nel cervello che hai il disegno di dedicare la vita alla sua vanità. Tuttavia, un comportamento sobrio e controllato è un grandissimo pregio in una donna e questo tu lo possiedi. Scrivi nuovamente presto perché sono piuttosto infuriata e ho bisogno di una buona doccia fredda. 13 giugno 1845. In quanto a quella tale Mrs. che tu dici mi assomiglia, io invece non provo alcuna simpatia per lei. Non ne sento mai per le persone giudicate simili a me, perché ho sempre l'idea che siano come me, solamente nella sgradevole prima impressione che posso dare, in quelle caratteristiche che sono le più ovvie nel contatto superficiale con la gente e che so non essere attraenti in me. Dici che è intelligente, una persona capace? Ah, quanto mi dispiace questa espressione. Dà l'idea di una donna astuta, impicciona, brutta, chiacchierona. Sono riluttante a lasciare papà per un solo giorno. La sua vista si abbassa da una settimana all'altra e non ci si può stupire che mentre vede diminuire la più preziosa delle sue facoltà, sia nel leggere che nello scrivere, paventi la condizione dipendente in cui la cecità lo ridurrà inevitabilmente. Teme di non poter più fare nulla nella sua parrocchia. Tento di rincuorarlo. A volte mi riesce temporaneamente, ma nessuna consolazione potrà restituirgli la vista o compensarne la perdita. Eppure non è mai lagnoso, ma mai impaziente, solamente ansioso e depresso. A causa della situazione qui sopra esposta, Charlotte declinò l'invito a recarsi nell'unica casa dove ormai la invitavano. In risposta alle insistenze della sua corrispondente, scrive: Hai pensato che ho rifiutato il tuo invito con freddezza, quando avrei dato volentieri i miei occhi per dirti sì, mentre ero costretta a dirti no. Tuttavia ora le cose sono un po' cambiate. Anne è tornata a casa e la sua presenza mi concede un po' di libertà, perciò se tutto andrà bene verrò da te. Fammi solamente sapere quando devo venire. Indicami la settimana e il giorno. Abbi inoltre la gentilezza di rispondere alle seguenti domande, se ti è possibile. Che distanza c'è da Leeds a Sheffield? Sai indicarmi quanto costa il viaggio? Naturalmente, quando sarò con te, mi lascerai godere in pace la tua compagnia, rinunciando a trascinarmi a far visite. Non ho alcun desiderio di vedere il vostro curato. Penso che sia tale quale tutti gli altri curati che ho già conosciuto. Mi sembrano un genere principalmente preoccupato di sé, vano e vacuo. In questo benedetto momento ne abbiamo addirittura tre nella parrocchia di Haworth e non ve n'è uno che valga compensare gli altri. Giorni fa, tutti e tre, accompagnati da Mrs. S., sono capitati, o per meglio dire, si sono precipitati da noi inaspettatamente all'ora del tè. Era un lunedì, giorno in cui facciamo il pane, sicché io ero stanca e accaldata. Tuttavia, se si fossero comportati quietamente ed educatamente, li avrei serviti in tutta pace. Invece hanno incominciato a gloriarsi, a dare addosso ai dissenzienti, in modo da farmi perdere la pazienza. E venni fuori con alcune frasi rapide e taglienti che li misero tutti quanti a tacere. Papà ne rimase inorridito, ma io non le rimpiango. Tornata dalla breve visita fatta all'amica, viaggiò con un signore che dalle fattezze e dai modi riconobbe all'istante per un francese. Si avventurò a chiedergli se era veramente tale e, avuta una risposta affermativa, gli domandò se per caso non avesse trascorso un lungo periodo in Germania e si sentì rispondere di sì. Il suo orecchio esercitato aveva colto, nell'intonazione del compagno di viaggio, quel non so che di gutturale che i francesi dicono di notare nell'accento perfino dei nipoti di quei loro compatrioti che hanno vissuto a lungo oltre il Reno. Charlotte aveva conservato una piena familiarità con quella lingua grazie alla consuetudine che espone come segue a Monsieur Heger. Ho molta paura di dimenticare il francese. Imparo allora ogni giorno mezza pagina a memoria e provo un gran piacere nel mandarla a mente. Assicurate Madame di tutta la mia stima. Temo che Marie-Louise e Claire mi abbiano già dimenticata, ma vi rivedrò un giorno. Appena avrò guadagnato abbastanza denaro per venire a Bruxelles, verrò. Il suo viaggio di ritorno a Haworth dopo la visita all'amica fu dunque allietato dalla conversazione col signore francese ed ella giunse a casa distesa e soddisfatta. Per incontrarvi cosa? Erano le 10 di mattina quando giunse la canonica. Vi era Brownell tornato inaspettatamente, gravemente ammalato. Era giunto a casa 1 o 2 giorni prima, apparentemente per una vacanza, ma a quanto immagino perché era stata scoperta la cosa che rendeva la sua assenza inequivocabilmente opportuna. Il giorno del ritorno di Charlotte aveva ricevuto da Mister una dura lettera di licenziamento. Vi si dichiarava che il suo modo d'agire era stato scoperto, veniva bollato con la taccia di vile, al di là di ogni possibile espressione, gli veniva imposto sotto pena di venire smascherato pubblicamente se avesse disobbedito, di interrompere immediatamente e per sempre qualsiasi comunicazione con tutti i membri di quella famiglia, senza eccezione. Vennero alla luce i vergognosi particolari. Bronwell non era in condizione di nascondere il suo disperato rimorso, né, strano a dirsi, nemmeno per timore della vergogna, il suo disperato desiderio di quell'amore colpevole. Diede libero sfogo ai suoi sentimenti, scandalizzò e desolò inesprimibilmente le amorevoli sorelle. Il padre, quasi cieco, sedeva impietrito, dolorosamente tentato di maledire la donna perversa che aveva fatto cadere in tentazione il suo unico maschio, il suo ragazzo, trascinandolo nell'abisso di vergogna di un peccato mortale. L'instabilità di umore, la gaiezza eccessiva alternata alla depressione apparentemente immotivata degli ultimi mesi, ora si spiegavano. C'era inoltre una ragione ancora più profonda per le sue intemperanze. Per affogare il rimorso aveva iniziato la sua carriera di bevitore inveterato. L'aspetto più pietoso della situazione, per quanto lo riguardava, consisteva nell'anelito amoroso che provava ancora per la donna che lo dominava totalmente. A vero dire, ella dichiarava di provare un amore uguale a quello di lui, ma ben presto si vedrà quanta verità vi fosse in quelle parole. Nel giovane ci fu un inatteso soprassalto di coscienza quando, alcuni mesi più tardi, incontrandola a Harrogate, su appuntamento, rifiutò di fuggire con lei come ella gli proponeva. Fino alla fine della sua breve vita rimase in lui un che di buono, nonostante la debolezza e la corruzione in cui affondava. Questa storia presenta il rovescio di quanto avviene abitualmente in casi simili. L'uomo fu la vittima, la vita di lui fu devastata, la morte fu conseguenza del dolore, la sua colpa fu determinata dalla colpa altrui, fu la famiglia dell'uomo che provò più pungentemente la vergogna. In quanto alla donna, nonostante il pio nome di suo padre, nonostante il sangue delle onorate famiglie che fluiva nelle sue vene, nonostante la casa dove era cresciuta, sotto il cui tetto sedettero uomini i cui nomi sono considerati santi in ricordo del gran bene da loro compiuto, se ne sta ancora oggi in una rispettabile cerchia sociale, vistosa nonostante l'età, tenuta a galla dalla fama della sua ricchezza. Nei giornali della contea leggo il suo nome fra quelli delle patronesse che organizzano i balli di Natale. Leggo di lei nei resoconti dei ricevimenti londinesi. Ma ora leggiamo qui, avendo già preso conoscenza delle sofferenze del suo colpevole complice, quale desolazione la cagionò a vittime innocenti, la cui morte prematura può, per certi versi, essere imputata a lei. Bronwell ci ha dato un triste da fare. Scrive Charlotte. Pensava solamente a ottundere o affogare la sua desolazione. Nessuno in questa casa ha potuto riposare e alla fine siamo state costrette ad allontanarlo da casa per una settimana, accompagnato da qualcuno che se ne prendesse cura. Mi ha scritto stamane, esprimendo una certa contrizione, ma finché rimarrà in casa non posso sperare che vi sia pace fra le nostre pareti domestiche. Temo che ci si debba preparare tutte quante in previsione di un periodo di angoscia e di inquietudine. Quando ti ho lasciata ero sotto la forte impressione che me ne ritornavo incontro al dolore. Agosto 1845. Le cose qui a casa vanno su per giù come al solito, non molto bene per quanto riguarda Bronwell, benché la sua salute e di conseguenza il suo umore siano stati, diciamo, migliori in questi ultimi 1 o 2 giorni, perché è costretto ad astenersi. 18 agosto 1845. Ho tardato a scrivere perché non ho buone notizie da comunicare. Le mie speranze nei riguardi di Bronwell sono scarse. A volte temo che non farà mai nulla di buono. L'ultima delusione circa le sue prospettive e l'ultimo colpo subito dai suoi sentimenti lo hanno gettato in uno stato di massima inquietudine. Solamente la totale assenza di mezzi vale a trattenerlo. Si dovrebbe sperare fino all'ultimo, e mi sforzo di farlo, ma in certi momenti, ah, la speranza sembra tanto fallace nel nostro caso. 4 novembre 1845. Avevo sperato di poterti invitare a Haworth. Sembrava che Bronwell avesse la probabilità di ottenere un impiego e io aspettavo di conoscere l'esito del suo tentativo per dirti, cara, vieni a trovarci. Ma il posto, segretario presso una compagnia ferroviaria, è stato accordato a un'altra persona. Bronwell dunque per ora rimane a casa e finché lui sarà qui tu non devi venire. Quanto più ho modo di vederlo, tanto più mi confermo in questa decisione. Vorrei essere in grado di dirti una buona parola a suo riguardo, ma non mi è possibile. Non dirò di più. Ti siamo tutti obbligati per il tuo gentile suggerimento a proposito di Leeds, ma i nostri progetti per la scuola in questo momento sono accantonati. 31 dicembre 1845. Dici bene quando dici che nessuna sofferenza è tanto acuta come quella provocata da una condotta dissipata. Ahimè, ne faccio l'esperienza personale quotidianamente. X e Y devono condurre una vita altrettanto spossante e stressante nel prendersi cura del loro infelice fratello. Sembra penoso davvero che chi non ha peccato personalmente debba tanto soffrire. L'anno 1845 finì così. Tanto vale che io completi a questo punto la narrazione della vita di Branwell Bronte. Alcuni mesi più tardi, ho la data precisa, ma per ovvie ragioni non la rivelo, il marito, infermo da lungo tempo, della donna con la quale aveva avuto una relazione, morì. Branwell aveva atteso con colpevole desiderio questo avvenimento. La morte del marito avrebbe lasciata libera l'amante, che, per quanto possa sembrare strano, il giovane amava ancora appassionatamente. Ora immaginava che il momento di fare concreti progetti di matrimonio fosse giunto, per poter in seguito vivere uniti senza rimprovero e senza biasimo. Ella gli aveva proposto di fuggire con lui, gli aveva scritto di continuo, gli aveva mandato denaro, a 20 sterline per volta. Rammentava le delittuose richieste fategli, come aveva sfidato la vergogna, le pretese che dei figli che minacciavano di rivelare ogni cosa ed era convinto che lo amasse davvero, non sapeva quanto una donna può essere cattiva e depravata. Il marito aveva fatto un testamento nel quale l'ingente sostanza che le lasciava era vincolata da una sola condizione: non doveva rivedere mai più Branwell Bronte. Appena letto il testamento, forse temendo che Branwell si preparasse a raggiungerla avendo saputo della morte del marito, mandò un domestico in tutta fretta a Haworth. Questi si fermò a Blackball, da dove mandò subito un messaggero alla canonica a chiamare Branwell. Questi scese alla piccola locanda e rimase chiuso con quell'uomo per un certo tempo. Poi il servo salì a cavallo e ripartì. Branwell rimase nella stanza e passò più di un'ora prima che desse segno di vita. Poi si udì un grido disperato, simile al muggito di un vitello straziato, e quelli che accorsero spalancando la porta lo videro in preda alla violenta crisi subentrata allo stupore in cui era caduto, all'udire che l'amante gli proibiva di farsi vivo, visto che se l'avesse fatto lei avrebbe perso ogni sua sostanza. Viva e fiorisca pure. Lui è morto, tenendo in tasca fino all'ultimo giorno le sue lettere, che aveva sempre portato con sé per poterle leggere e rileggere. Ora giace e la sua sorte eterna è conosciuta solamente dalla misericordia divina. Durante gli ultimi 3 anni di vita, Branwell usava l'oppio abitualmente per stordirsi. Per di più, appena gliene si offriva la possibilità, beveva senza ritegno. Il lettore potrebbe osservare che ho fatto menzione della sua intemperanza assai prima di quegli anni. È vero. Ma a quanto mi è dato saperne, non era un'abitudine prima che avesse inizio la colpevole intimità con la donna di cui ho scritto sopra. Se mi sbaglio su questo punto vuol dire che i suoi gusti erano tanto depravati quanto il suo istinto. Prendeva l'oppio perché l'aiutava a dimenticare meglio di quanto facesse l'alcol e inoltre era più facile da trasportare. Nel procurarselo dimostrava l'astuzia propria del drogato. Usciva furtivamente mentre la famiglia si trovava in chiesa, dove aveva dichiarato di sentirsi troppo male per andare, e riusciva a indurre il farmacista del luogo a dargliene un pezzo, oppure, senza saperlo, il corriere gliene portava in un pacco che giungeva da lontano. Alcuni mesi prima di morire, fu preso da violentissime crisi improvvise di delirium tremens. Dormiva nella stessa camera col padre e ripetutamente esclamava che uno dei due sarebbe morto prima della mattina. Le sorelle, tremanti, si sentivano male dallo spavento e imploravano il padre di non rimanere esposto a quel pericolo, ma Mr. Bronte non è uomo timido e probabilmente pensava di sapere influire sul figliolo in modo da fargli mantenere un minimo di controllo, più dimostrandogli fiducia che non dando prova di paura. Le sorelle vegliavano, temendo di udire il rumore di uno sparo nel cuore della notte, finché l'occhio insonne e l'orecchio teso si facevano pesanti e insensibili per la perpetua tensione nervosa. La mattina seguente, il giovane Bronte se ne veniva fuori dicendo con una sguaiataggine da ubriaco: «Quel povero vecchio e io abbiamo passato una notte terribile. Fa del suo meglio, povero vecchio, ma non c'è più niente da fare». Poi aggiungeva singhiozzando: «È colpa di lei, è colpa di lei!» Tutto quanto rimase da dire su Bruno il Bronte sarà detto da Charlotte stessa, non da me.